Una cosa che non avevamo in mente fino appunto all'esplosione della pandemia e che non ci sarebbe forse mai stata, mancava in Italia appunto l'idea di uno strumento che portasse l'attività rieducativa, il progetto culturale del carcere dentro le camere di detenzione, dove sono gli apparecchi televisivi accesi anche 17 ore al giorno. Mi ha scritto personalmente una persona che è detenuta nel carcere, dice: ti scrivo per dirti che siamo succubi della TV, è l'unica a darci finte emozioni, ma se non ci fosse parecchi si taglierebbero e si impiccherebbero. Ci intrattiene, a volte vediamo e rivediamo le stesse cose. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che facciamo è accendere la TV e la sera è l'ultima cosa a essere spenta. Senza TV non si vivrebbe, siamo tossici di TV. Comunque ho visto nel mio periodo di carcerazione gente tagliarsi, alcuni distruggerebbero la cella quando non funziona. Per me è un sollievo avere la TV, anche io senza non so cosa farei. E poi aggiunge, l'unica cosa che non fa è insegnare a scrivere. Ho bisogno di imparare a scrivere e leggere, ho bisogno di studiare e imparare a scrivere e leggere cose che incarnano queste cose, insomma ci vorrebbero. Questa lettera da una parte si mostra questo approccio con lo strumento televisivo che è essenzialmente ansiolitico, cioè la tengo accesa perché altrimenti mi taglio. Nello stesso tempo c'è una richiesta di cultura attraverso questa avrei bisogno di imparare a scrivere. Io gli direi: figlio mio, andai giù all'area pedagogica, e lui c'è, lui l'ho visto, abbiamo fatto un corso anche insieme all'area pedagogica, quindi la scuola c'è, però è una porzione piuttosto minoritaria quella che accede ai servizi scolastici. C'è una grande maggioranza di persone che avrebbe bisogno di formazione in tutti i sensi e non va a scuola, non partecipa delle iniziative di formazione, non partecipa a niente. Non molliamo, li andiamo a raggiungere sul canale che loro utilizzano. Quindi appunto il passaggio, cioè la lampadina che si è accesa durante questa pandemia, è che questo strumento può diventare un partner del lavoro rieducativo. E in questo senso, quindi, non pensandosi in sostituzione, e questo è stato anche un problema, allora fate scuola sulla televisione, allora non c'è bisogno che entrino poi gli insegnanti a scuola, perché la didattica viene, no, la didattica, cioè senza che io ho la penna, il quaderno, che ti mostro come si tiene la penna in mano, non esiste, quindi la didattica deve essere in presenza. Però questo può essere proprio un partner della didattica. Tutti i gruppi dei volontari, chi il Vangelo, chi il teatro, chi la musica, possono avvalersi di questo strumento per raggiungere con i propri contenuti le persone nelle loro camere detentive e istituire anzitutto, direi, un legame di empatia. Don Milani lo insegnava, chi ha insegnato a scuola lo sa benissimo, non c'è trasmissione di conoscenza senza un rapporto di amicizia. Per esempio la radio, usi molto diversi, televisione è fissa in cella, si litiga per cosa vedere, bisogna essere d'accordo, ma la radio con l'auricolare me la sento alle 2 di notte, la uso per proteggermi dal contesto, perché così non mi parlano del processo tutto il giorno, ho bisogno di sentire qualcosa per cui non sono solo il detenuto. E quindi radio e televisione con approcci diversi e in momenti diversi possono essere veramente un compagno e stabilire un rapporto di empatia. Direi che la disponibilità di Radio Fujiko e poi quella di Giovanni Mazzoni, Teletricolore, è stata fondamentale. E le persone che hanno seguito Eduradio si sono rese conto che andavano in onda per tutta la città attraverso di noi, ma erano loro poi i protagonisti. Quell'idea che è stata fondativa per il nuovo progetto di un sano protagonismo sociale, in cui c'è le istituzioni pubbliche, le associazioni della città, la scuola, i servizi sanitari e anche il protagonismo delle persone detenute. Una delle cose che si dice che fa leva sulla reintegrazione delle persone recluse è la restituzione della loro voce nello spazio pubblico. Il progetto che riparte è fatto così: la città parla al carcere attraverso i suoi protagonisti, che sono protagonisti conosciuti al carcere, sia alle amministrazioni ma sia anche alle persone detenute, ma al carcere anche parla la città. Passando brevissimamente al palinsesto, che essenzialmente funziona così: ci sono 5 giorni di trasmissione dal lunedì al venerdì di intrattenimento alle 9 di mattina su Radio Fujiko e dalle 10:30 alle 11 su Teletricolore, e poi parallelamente a questo il sistema dei laboratori, che sono laboratori diciamo da 30 minuti, 28 per la precisione, per bisogna stare in tempi contingentati per le trasmissioni radiofoniche, in cui si vuole dare più spazio che in passato, dare spazio di una vera lezione, di un vero intervento educativo. Questo progetto nasce molto dall'ascolto diretto in questi mesi dei detenuti.